perché non sono musulmano. Gesù e Maometto sono state indubbiamente le due persone più influenti mai esistite. L'influenza che hanno avuto si può riscontrare nelle due grandi religioni del mondo, il cristianesimo che vanta oltre 2 miliardi di seguaci e l'Islam che conta quasi 1,5 miliardi di proseliti. Ovviamente, chi è alla ricerca della verità, oltre a dover scegliere tra innumerevoli religioni, prova pure l'imbarazzo di scegliere tra il cristianesimo e l'Islam anche per il loro numero di seguaci. Quando nel 1964 rifiutai la religione cattolica romana per abbracciare la persona di Gesù Cristo con un atto di fede personale, non avevo dubbi sulla mia scelta, ma questa certezza non mi ha impedito di lasciare che la mia fede fosse messa in discussione dalle altre fedi. Anzi, con il passare del tempo, mi resi conto di quanto fosse importante che le mie certezze venissero confermate dagli errori altrui. Del resto, è così anche in qualsiasi campo dello scibile umano. Se vogliamo dimostrare che la gravità terrestre è una legge, non dobbiamo solo mettere in evidenza che un oggetto lasciato nel vuoto cade sempre, ma anche che un oggetto lasciato nel vuoto non cade se vi è un'altra legge che glielo impedisce. Una legge contraria rivela che la gravità terrestre è una legge. Così è evidente che ognuno creda alla propria fede come l'unica vera fede. Ma se questa viene confermata da altre fedi, degli eventuali dubbi sulla sua scelta di fede vengono per sempre rimossi. Così è stato per me. Ho sempre avuto la gioia di predicare con piena certezza di fede Gesù Cristo quale unico Salvatore, Dio e Signore, ma di fronte all'Islam ho sempre trovato un muro di opinioni diverse. E poi, chi garantisce che la fede che professiamo sia veramente quella giusta? Spesso pongo questa domanda quando sento dei musulmani affermare che tutte le altre religioni sbagliano e così con il passare del tempo, esaminando la fede musulmana, mi sono reso conto di quanto fosse importante per me la loro fede, perché ha dato maggiore autorità al cristianesimo. Anziché avere uno spirito contrario verso i musulmani, oggi sono riconoscente per l'esistenza del Corano. Se non ci fosse, potrei avere ancora dei dubbi in merito alla mia fede in Cristo, ma ora ho delle valide ragioni per non essere musulmano, 3 ragioni fondamentali che espongo qui di seguito. Non sono un musulmano, perché l'Islam è una religione come tutte le altre, e perciò non mi offre nulla di nuovo. È vero che il credo musulmano recita che vi è un solo Dio, Allah, e Maometto è il suo profeta, ma è un credo che possono fare tutti. Anche gli ebrei confessano che vi è un solo Dio, cioè Jah HaShaviach, e che è il loro Dio, il punto, quindi non sta nel loro credo, ma in quello che offre la loro fede. Innanzitutto, i musulmani non hanno certezze né per il presente né per il futuro. Il Corano offre delle promesse, ma queste si trovano in tutte le religioni. Il loro Dio è una divinità non conoscibile, che non può partecipare alla creatura umana la sua grandezza e gloria. In questo caso, Allah rimane solo un nome per definire una divinità. Inoltre, Maometto riferì le rivelazioni ricevute dall'arcangelo Gabriele per un periodo di 23 anni. Molte di quelle rivelazioni erano delle risposte ad avvenimenti storici, come una battaglia o una questione sul comportamento della società islamica. Anche i mormoni si vantano di avere come fondatore della loro religione un uomo che aveva ricevuto delle rivelazioni da un angelo di nome Moroni, il quale gli disse che il Dio che lo mandava aveva un compito da affidargli. Altre apparizioni divine lo consacrarono profeta. 3 anni dopo Moroni gli indicò un luogo dove scavare e il risultato dello scavo fu il ritrovamento delle tavole d'oro, su cui in geroglifici egiziani riformati era scritto un nuovo Evangelo. Ma siccome Joseph non sapeva leggere, l'angelo vi provvide guidandolo verso un paio di occhiali divini, attraverso le cui lenti egli poteva vedere la traduzione in inglese dei suddetti geroglifici. Anche Maometto, a 40 anni, nella caverna di Hira, ricevette la visita dell'angelo Gabriele, che gli apparve e disse: «Leggi!» Maometto rispose: «Non so leggere!» L'angelo lo afferrò e lo strinse con forza, perché Maometto capisse e non poté opporgli resistenza. Poi l'angelo gli disse di nuovo: leggi. Maometto rispose, non so leggere. L'angelo lo strinse di nuovo e poi lo lasciò, dicendogli cosa doveva leggere. Leggi. In nome del tuo Signore, che ha creato tutto ciò che esiste. Ha creato l'uomo da un'aderenza, un pezzo di sangue coagulato. Leggi che il tuo Signore è il generosissimo. Dunque il musulmano pone fede in un fondatore che sostiene di avere avuto una rivelazione non da Dio stesso, ma da un suo messaggero. Che garanzia mi può dare l'Islam che non mi diano anche altre religioni? Perché dover porre fede nell'Islam e non altrove? Ciò che l'Islam e le altre religioni dichiarano non è nulla se confrontato con gli uomini della Bibbia, ai quali la divinità parlava direttamente, e con Mosè che addirittura vedeva Yahweh Akelipa faccia a faccia. E meglio porre fede in un uomo il quale sostiene di aver ricevuto delle rivelazioni da un angelo, oppure credere a decine e decine di uomini ai quali Dio parlava direttamente, e meglio credere ad un solo uomo che ha dichiarato quello che voleva e che nessuno poteva confermare, oppure è meglio porre fede a decine e decine di uomini che pur non essendosi conosciuti, comunicano un solo ed unico messaggio, e meglio credere ad un uomo come Maometto la cui vita è stata caratterizzata dalla guerra per sottomettere uomini e terre al suo comando, oppure credere a uomini che a costo della loro vita hanno proclamato la verità. Inoltre, è meglio credere ad un uomo che è morto e è tuttora sepolto a Medina, oppure credere all'uomo Gesù Cristo morto e risuscitato il terzo giorno, come egli aveva predetto. Sono domande che tornano tutte a favore del cristianesimo, perché il messaggio del cristianesimo è unico in tutti i sensi e nessuna religione può stargli a confronto. Neanche l'Islam con i suoi miliardi di seguaci. Inoltre, non sono musulmano perché è una religione estremista. Oggi più che mai, gli estremisti fanno paura. Non mi riferisco tanto ai terroristi, perché di questi ce ne sono ovunque, ma all'atteggiamento che assumono i musulmani nei confronti di coloro che abiurano la loro fede. Ero presente ad un incontro in una moschea dove l'imam predicava con il solito fervore. Al momento delle domande chiesi perché i musulmani che abiuravano la loro fede veniva perseguitati, a volte torturati e uccisi senza pietà. Mi rispose che l'abiurare la fede era una offesa ai genitori, cosa che non si deve fare. Gli feci presente che anche nell'ambiente cristiano ci sono quelli che abiurano la fede. Ma i genitori non li perseguitano, né tantomeno li torturano o li uccidono. Qualsiasi cosa si pensi, perseguitare, torturare o uccidere chi abbandona una fede è un atto criminale degno di una setta o di una religione estremista. E per questo che non sono musulmano e neppure voglio esserlo, perché se un domani dovessi ritornare sui miei passi sono sicurissimo che mi aspetta la persecuzione o la morte. Non solo sono sicuro, ma lo dice anche il Corano. Non sono musulmano perché l'Islam conferma che il cristianesimo è la fede giusta. Ho avuto più volte occasione di parlare con dei musulmani e ogni volta li ringrazio per il loro testo sacro, cioè il Corano, e per la fede che professano. Confesso a loro che se sono cristiano convinto più che mai lo devo anche al loro testo sacro, perché il Corano, che è stato scritto almeno 600 anni dopo la morte di Cristo, conferma ciò che dice la Bibbia. Nel Corano Gesù viene chiamato uomo di pace, uomo perfetto, apostolo o messaggero. Sempre nel Corano Gesù viene definito il figlio immacolato, santo, purissimo, l'esempio, il portatore di saggezza, il casto, l'eminente in questo mondo e nell'altro. E ancora, Gesù viene definito il donatore di buone opere, il sapiente nelle scritture, il Messia, il bene, l'operatore di prodigi, colui che è simile ad Adamo. E l'elenco è ancora lungo perché nel Corano Gesù viene definito il nobile, fra i più vicini a Dio, il profeta, la rivelazione dell'umanità, il servo di Dio, il segno di tutte le creature, il segno dei tempi. E infine nel Corano Gesù viene definito il figlio di Maria, il benedetto, il confermato, colui da seguire, colui a cui ubbidire, la verità del Signore, il testimone nel giorno della resurrezione, il testimone sul popolo, e come se ciò non bastasse Gesù viene chiamato addirittura lo Spirito di Dio, la parola di verità. Non sono opinioni mie, ma sono titoli che un musulmano ha trovato studiando il Corano, titoli tra l'altro confermati dalla Bibbia. Se prendiamo sul serio ciò che viene detto di Gesù nel Corano, un libro che non ha nessun interesse a dichiarare cose del genere, perché dunque abbandonare la fede cristiana? Se Gesù è lo Spirito di Dio, la parola di Dio, se è santo, immacolato, se è colui da seguire, colui a cui ubbidire, perché ascoltare un uomo che era un peccatore, generato come ogni altro essere umano, un uomo al quale Dio non ha detto nulla direttamente, se Allah non può comunicare con l'uomo, perché è troppo grande, troppo eccelso, non è lecito pensare che i conti non tornano? I profeti prima di Maometto con chi parlavano se con Allah, che è detto l'unico Dio, non si può parlare direttamente e personalmente? Abramo e Mosè chi hanno visto se Allah non si può vedere? Tra le tante religioni, il cristianesimo è quella che non ci confonde perché presenta Dio l'unico creatore, che ha fatto l'uomo per stare in comunione con lui e che quando questo si è separato da lui, trasgredendo il suo comandamento e scegliendo una vita indipendente, non lo ha abbandonato, ma ha assunto un corpo umano nel seno di una vergine, ha parlato e parla con gli uomini, ha riconciliato l'uomo a Dio, ha promesso la certezza della vita eterna ora e per l'eternità. A chi ha posto fede in Cristo Gesù non conviene cambiare fede, e i musulmani, se diventano cristiani, hanno tutto da guadagnare. Cosa perdono a diventare cristiani? Ottobre 2005. Ellero.